TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Combattente friulano morto in Ucraina, a Paularo parla il padre, non era un mercenario, dice, lottava per i più deboli. A bordo della piattaforma automatizzata che ristruttura il Molo Settimo di Trieste, lavorando nell'acqua. Gli eventi culturali spingono il turismo di Pordenone più 6,6% tra gennaio e maggio rispetto a un anno fa. A Trieste faccia a faccia in commissione trasparenza tra maggioranza e opposizione sul progetto Cabinovia. Due petizioni per il tagliamento in audizione a Bruxelles. Per il comitato la traversa di Dignano è la peggiore opzione. Superare la separazione tra salute fisica e salute mentale nella cura della persona a Udine. 3 giorni di convegno. 12:31, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. 48 anni, carnico di Paularo, David Digleria è l'ultimo foreign fighter italiano scomparso in Ucraina, dove aveva deciso di combattere affiancando l'esercito di Kiev durante un'azione di guerra in una zona sotto controllo russo. A Paularo, Lillo Montalto Monella ha rintracciato il padre dell'uomo. Non era un mercenario, dice, ma un cuore generoso che combatteva per i più deboli. Qual è stato l'ultimo messaggio? Cosa vi ha detto nell'ultima comunicazione che avete avuto con suo figlio David? Sì, questo è venuto circa 3 mesi fa più o meno, giorno su, giorno giù. Prima ci messaggiava ogni giorno e quel giorno ci ha comunicato che andava al fronte praticamente, mentre prima era nelle retrovie. Da quel giorno in poi andava al fronte e di non comunicare, di spegnere il telefonino, di non comunicare con lui perché chiaramente c'era la paura che venisse intercettato. Vi ha chiamato ieri l'ambasciatore di Kiev direttamente? Sì, l'ambasciatore di Kiev ieri sera alle 17:30 ci ha comunicato la situazione perché eravamo già in contatti. Chi è David? Perché ha voluto andare in Ucraina? David ha degli ideali dove il più forte non è giusto che prevalga con il più debole. Non era sicuramente un mercenario perché in diverse occasioni abbiamo mandato dei soldi perché potesse prendersi qualcosa e quindi non era andato per guadagnare qualche cosa, ma per partecipare a questa che lui riteneva una invasione ingiusta. Che racconti vi ha fatto quando poteva comunicare via messaggio del tipo di guerra che ha visto? Ci diceva che c'era un po' di confusione perché non c'erano fra l'altro solo militari ucraini ma anche del Sud America e quelli sì, diceva che hanno dovuto ricredersi in quanto non ricevevano assolutamente niente. Che persona è David? Era un cuore buono, vorrei dire è un cuore buono, un cuore generoso verso il prossimo. E non era un guerrafondaio o certamente tantomeno, come si dice, un mercenario. Paularo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A 50 anni di vita il Molo Settimo di Trieste per la prima volta ora sta subendo un'importante opera di riqualificazione e pulizia grazie a un robot marino creato dalla friulana ICOP e nato dall'idea di un team che ha lavorato al recupero della Costa Concordia. Siamo saliti a bordo della piattaforma automatizzata. Raggiungiamo via mare il pontone d'appoggio di RoboGo attraccato al Molo Settimo del Porto Nuovo di Trieste. A distanza vediamo questo grande macchinario lungo 32 metri che però affiancato al molo sembra quasi piccino. RoboGo è un sistema nuovo, altamente complesso, unico al mondo che permetterà di riqualificare il Molo Settimo, molo che ha 50 anni di vita ma sul quale una vera opera di manutenzione e pulizia dell'impalcato non era mai stata fatta. Il sistema presentato alla stampa alla presenza del viceministro Rixi lo scorso luglio ha superato test e collaudi e da lunedì è operativo, lavora non stop 24 ore su 24. Noi siamo con Luca Zambarbieri, amministratore delegato di Taverna, responsabile della riqualificazione. Abbiamo visitato la control room, un luogo di fatto pulito dove ci sono solo monitor, non vediamo operai al lavoro fisicamente. Di fatto questo macchinario sostituisce il lavoro dell'uomo? Assolutamente sì, l'obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di ridurre al massimo quello che erano i rischi per gli operatori. Difatti non ci saranno operatori che faranno attività, ma sarà esclusivamente la macchina. Un anno di lavori, 30 tecnici palombari che lavorano a questo progetto, l'80% dei quali ha lavorato al recupero della Costa Concordia. Quanto è stata significativa quell'esperienza per lavorare qui? È stata fondamentale. Lo staff che abbiamo costituito, grazie all'esperienza di queste persone, è stato esclusivo per questo, raggiungere questo obiettivo, quindi la costruzione di un macchinario marittimo che potesse garantire la sicurezza degli operatori e avere una massima attenzione agli aspetti ambientali. Questo macchinario lavorerà qui a Trieste di fatto per un anno, e poi che futuro avrà, visto che è un'opera unica al mondo? Ma ci auguriamo che possa varcare le acque di qualche altro confine. Ad oggi c'è molto interesse da parte dell'India, degli Emirati Arabi. Confidiamo di poter concludere con l'ultimazione dei lavori in Molo Settimo anche dei nuovi contratti in giro per il mondo. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre da Trieste, in Commissione Trasparenza del Comune, il confronto sulla bocciatura da parte del TAR all'iter per la concessione della VAS, la valutazione di impatto strategica al progetto della cabinovia da parte del Comune. Secondo l'opposizione è violato il principio di imparzialità nella selezione degli esperti per il parere al progetto. Il dirigente comunale Giulio Bernetti risponde che si trattava di professionisti del settore. Vizi procedurali, secondo il TAR, nell'iter della concessione della valutazione ambientale strategica da parte del Comune di Trieste. Lo stop al progetto della cabinovia imposto dal Tribunale Amministrativo Regionale approda in Commissione Trasparenza, dove il confronto è soprattutto tecnico tra maggioranza e opposizione, tranne quando il consigliere Alberto Pasino della lista Russo.Franco interviene auspicando un cambio di rotta da parte del Comune su questioni analoghe, dove è richiesta la terzietà del parere. Proprio su questo aspetto si concentra la motivazione del TAR. Ovvero la mancanza nella VAS di un parere terzo oltre a quello degli esperti nominati. Questi ultimi tutti professionisti del settore, ha risposto il dirigente del comune Giulio Bernetti. Roberto Casone, Civica Idea Giuliana. Io ritengo anche, ed esprimo il mio parere come componente anche di questa commissione, che il comune abbia lavorato correttamente, perché si è sempre fatto così. Non ci sono norme specifiche che danno indicazioni specifiche circa un iter che è stato indicato nella sentenza del TAR, e quindi ritengo che, e sono fiducioso di questo, che l'amministrazione abbia operato correttamente. Riccardo La Terza, adesso Trieste. Per noi non è sostenibile la giustificazione che si è sempre fatto così. I precedenti, se sono dei precedenti sbagliati, non aiutano il buon andamento dell'amministrazione, hanno fatto perdere al Comune già anche tanti soldi in termini di spese legali per una difesa che non è stata efficace, proprio perché non sono state evidentemente rispettate le regole. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sospendere le opere incompatibili con la difesa del tagliamento, a Bruxelles illustrate due petizioni per la salvaguardia del fiume Alpino. Contro il progetto della traversa di laminazione di Dignano vengono chieste soluzioni meno impattanti. Una battaglia pretestuosa, ribatte la regione, che con l'assessore all'ambiente Fabio Scocimarro sottolinea come non sia stato ancora nemmeno predisposto il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Nei soli 5 minuti a disposizione concessi a ciascun audito davanti alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo a Bruxelles, la Presidente dell'Associazione Assieme per il Tagliamento, Franca Pradetto, e il Professor Lorenzo Picco, docente di geomorfologia fluviale all'Università di Padova, ribadiscono il loro parere negativo sulla traversa sul tagliamento, insieme a quello degli oltre 13.000 firmatari della petizione promossa dall'Associazione, che chiede alla Regione di tornare sui propri passi, la peggiore opzione possibile per l'ultimo grande fiume alpino selvaggio d'Europa, ricorda Pradetto, perché anche a detta della comunità scientifica la traversa non garantisce la sicurezza della popolazione del basso corso e perché snaturerebbe un fiume già fragile, spiega. Nessun cittadino è contrario alla sicurezza, ma servono altre soluzioni meno impattanti, sottolinea Pradetto, passando poi la parola all'esperto che affianca l'associazione nel suo impegno di tutela. Ci sono delle alternative, afferma il professor Picco, che puntualizza anche le criticità del progetto in controtendenza con le ultime direttive europee sulla necessità di limitare e invertire il degrado dei fiumi, afferma il docente. Di qui l'appello di Pradetto, prima firmatario della petizione, che alla Commissione chiede di sospendere le opere incompatibili. Dopo di lei, sullo stesso argomento, viene illustrata una seconda petizione, i cui promotori ricordano di aver presentato un esposto sul progetto e chiedono un'indagine e maggior vigilanza. Si attende ora al parere della Commissione, che comunque non sarà vincolante. Dovessero essere accolte le petizioni, servirebbe poi un atto ufficiale rivolto al governo italiano e alla Regione, un processo alle intenzioni, una mera e pretestuosa battaglia ideologica, le petizioni per l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro, poiché ribadisce un progetto ancora non esiste, ma si è solo in fase di studio preliminare. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Pordenone costruisce la sua crescita turistica sull'onda dei grandi eventi culturali, da Pordenone Legge al cinema muto, guardando alla capitale italiana della cultura. I grossi numeri ancora non ci sono, ma qualcosa si muove. Pordenone prova a diventare città turistica. I primi dati dell'anno registrano un trend in crescita del 6,6% nelle presenze per il periodo gennaio-maggio. Bene anche l'estate, anche se ancora presto per valutare i frutti della designazione a Capitale Italiana della Cultura 2027. Giampiero Zanolini, vicepresidente Consorzio Pordenone Turismo. Siamo in trend positivo, non grandissimo, ma siamo in trend positivo. Per il futuro su Pordenone, città della cultura, dove c'è aspettativa, si sta muovendo qualcosina, ma naturalmente ancora le grandi prenotazioni un po' latitano, ma è onestamente ancora un po' presto. Funzionano gli eventi che richiamano in città visitatori e visitatrici interessati anche a scoprire borghi e offerta del Friuli occidentale. L'assessore Alberto Parigi. Noi ci stiamo impegnando da questo punto di vista. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avremo degli incontri con gli operatori turistici tedeschi e austriaci per inserire Pordenone nei loro cataloghi. La 26esima Pordenone Legge si è conclusa con oltre 100.000 presenze e la prossima settimana, dal 4 all'11 ottobre, sono attesi gli appassionati da tutto il mondo per le giornate del cinema muto. La voce di un esercente del centro. Sicuramente la città sta progredendo piuttosto bene. Qualcuno vi ha fatto menzione alla curiosità relativa alla capitale della cultura? Vi è capitato? Per adesso no, ma è un ottimo punto di partenza. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, il cielo risulta al momento da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 19 gradi e 5 decimi con mare calmo e con temperatura di 24 gradi. A Udine 19 gradi, a Pordenone 18 gradi e 5 decimi. A Gorizia 15 gradi e 5 decimi. Tolmezzo 15 gradi, Forni di Sopra 11 gradi e mezzo. Biancavallo e Tarvisio 11 gradi, Sappada 9 gradi e mezzo. Sul Monte Zoncolano e Monte Lussari 5 gradi e 5 decimi. Grado 20 gradi, Lignano 19 gradi e mezzo, temperatura del mare 24 gradi, a Grado 21 a Lignano. Ora le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Questo pomeriggio temporaneo miglioramento con cielo variabile, forse anche poco nuvoloso, e in genere bassa probabilità di piogge sparse, deboli o moderate. Tuttavia sarà possibile lo sviluppo di locali temporali sul Golfo di Trieste che potrebbero provocare piogge, forse anche abbondanti, specie sulla costa e sulla bassa pianura. Nelle ore notturne e al mattino possibile presenza di foschia in pianura e nei fondovalle più interni. Domani cielo in prevalenza coperto, ma saranno possibili schiarite a tratti. Saranno probabili piogge sparse intermittenti, da moderate ad abbondanti, forse anche localmente intense e temporalesche, specie su pianura e costa. Sui monti in quota oltre i 2200 metri, probabili nevicate, in genere deboli. I carabinieri della stazione di Foglianore di Puglia hanno arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Sagrado un ventenne della zona per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, alla vista dei militari, ha cercato di fuggire lanciando via un involucro recuperato subito dopo dai carabinieri e all'interno del quale erano contenuti circa 19 grammi di chetamina, una sostanza stupefacente di tipo sintetico. La perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di una modica quantità di hashish e di una bilancia di precisione utilizzata per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. e si è presentato questa mattina il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pordenone, il colonnello Emanuele Spiller. Prende il posto di Roberto Spinola. Spiller arriva da Reggio Calabria, precedentemente era stato per 6 anni al comando del reparto operativo provinciale di Venezia. Ha guidato anche 3 compagnie in Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. Tra le priorità ha detto un approccio vicino alla cittadinanza e particolare attenzione a reati come i furti in abitazione e le truffe agli anziani, oltre a quelli del codice rosso. Ascoltiamolo. L'approccio è naturalmente quello di essere il più possibile vicini ai cittadini, cercando di intercettare le esigenze del territorio e naturalmente essere il più possibile efficaci poi nell'intervento sui vari fenomeni che succedono sul territorio. Parlando con le varie autorità che ho incontrato in questi giorni, devo dire che è un territorio che è prevalentemente sano. Naturalmente uno dei fenomeni che già mi è stato rappresentato è quello dei furti nella loro generalità, ma in modo particolare i furti in abitazione. Quindi su questo poi analizzeremo in maniera sistematica il fenomeno per poi adottare insieme con le altre forze di polizia le misure più idonee nell'arco serale prevalentemente, dove in questo periodo avvengono principalmente questi tipi di reati. Naturalmente l'invito ai cittadini è quello di adottare anche loro tutte le misure di sicurezza possibili da questo punto di vista. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infantile Burlo Garofalo di Trieste è tra i primi ad aver introdotto in ambito pediatrico la tecnica BEST, bleomicina elettroscleroterapia, per curare bambini con malformazioni vascolari. Questa procedura combina l'infusione di un chemioterapico, la bleomicina, all'impiego di impulsi elettrici che aprono temporaneamente la membrana cellulare, favorendo una migliore penetrazione del farmaco. BEST è nata nell'oncologia dell'adulto per trattare tumori cutanei non operabili, ma è stata successivamente adattata per essere impiegata anche nelle malformazioni vascolari. Al Burlo si è fatto un passaggio ulteriore, ovvero perfezionare la tecnica per poterla applicare sui bambini. A raccogliere e vincere questa sfida sono stati Jürgen Schleff, direttore della struttura complessa di chirurgia pediatrica, ed Edoardo Guida, chirurgo pediatra, arrivato a Trieste dopo essersi specializzato al Gaslini di Genova. Grazie all'esperienza maturata nell'Istituto Giuliano, questa procedura si prepara a diventare lo standard di riferimento in contesto pediatrico. BEST, spiegano Guida e Schleff, rappresenta un cambio epocale nella gestione delle malformazioni vascolari, spesso invalidanti, aprendo una nuova frontiera per i bambini. E oggi a Buongiorno Regione abbiamo parlato di alimentazione e salute partendo da un quadro della situazione in Friuli Venezia Giulia con gli ultimi dati relativi al 2024 contenuti nella pubblicazione dell'Associazione Italiana Oncologia Medica. Un'alimentazione sana è come una medicina, previene le malattie e fa vivere meglio. Lo stanno scoprendo anche gli italiani. Secondo l'ultimo rapporto Coop, chi fa la spesa è più attento alle etichette ed evita cibi processati in favore del biologico. È un buon inizio, ma è solo un inizio. In regione 4 su 10 sono sovrappeso e solo il 5% consuma frutta e verdura 5 volte al giorno, come viene raccomandato. Diego Serraino, epidemiologo di Alleanza contro il cancro. È andata veramente molto, molto, molto bassa, e qui l'accessibilità nella nostra regione alla frutta e verdura è alta, i prezzi sono abbastanza accessibili, quindi è proprio una questione di gusti. Il vero problema è che noi da mediterranei abbiamo abbandonato le nostre radici di mediterranee, quindi avere il rapporto col cibo che ci serve, quindi la frutta, la verdura, l'olio di oliva, è verso tipi di alimentazione più rapida. Per tradizione resta alto il consumo di alcol. Nonostante il calo degli ultimi anni, siamo quarti in classifica tra le regioni dove si beve di più. L'alcol è un carcinogeno di gruppo 1, cioè non ha, è chiaramente associato a 7-8 tipi di tumori, malattie del fegato, causa almeno 2.000 morti di tumore della mammella in tutta Italia all'anno. Quindi è veramente un problema grosso legato al fatto che è uno strumento di socializzazione. Il consumo ideale di alcol sarebbe zero, però una quantità minima è accettabile per chi è in salute, un massimo di 10-12 grammi al giorno, cioè un bicchiere di vino o 2 di birra. Tra i vari rischi di un'alimentazione sregolata bisogna sempre più fare attenzione agli zuccheri. Nel Friuli Venezia Giulia il 24% dei bambini dagli 8 ai 9 anni assume, diciamo, ogni giorno bevande zuccherate, no? Quindi questo è un problema, e qua si ritorna alla sugar tax, che anziché aumentare di 5 centesimi le bibite dovrebbe passare a aumento del 20-30%, come fanno molti paesi, e prendere quei soldi per investirli nella prevenzione. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà inaugurato oggi il nuovo percorso 10.000 passi di salute di Porcia, che fa parte del progetto regionale Friuli Venezia Giulia in movimento, cui aderiscono già 132 comuni su 215 per 121 percorsi in tutta la regione. Il ritrovo oggi sarà alle 17 in via delle Risorgive, vicino al nuovo cartellone del progetto FVG in movimento, da cui parte il percorso Street View Porcia, che attraversa il Parco degli Alpini, prosegue lungo la pista ciclopedonale fino a via Antonio De Pellegrini, quindi arriva al Castello dei Conti di Porcia, Brugnera, al Palazzo Novo del Vescovo e poi a uno degli alberi monumentali della regione, con i suoi 33 metri di altezza e 5 di circonferenza, per concludersi poi a Villa Correr Dolfin. Promuovere un approccio integrato alla cura della persona, riportando al centro del dibattito la necessità di superare la storica separazione tra salute fisica e salute mentale. È l'obiettivo del convegno Salute Mentale e Medicina, percorsi di cura e integrazione, in programma da oggi a sabato all'Università di Udine, nell'auditorium della Biblioteca Scientifica. La Tre Giorni affronterà i temi delle comorbidità nell'adulto, della salute mentale in adolescenza, fino alle sfide della prevenzione e dell'innovazione nei modelli di cura. L'evento è organizzato dal Dipartimento di Medicina dell'Ateneo e della Clinica Psichiatrica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ASUFC. La prima giornata è dedicata all'interazione tra malattie fisiche e disturbi psichiatrici nell'adulto, con focus su comorbidità metaboliche, dolore cronico, long covid e invecchiamento. All'interno del convegno si terrà inoltre il Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza. Ne abbiamo parlato con Marco Colizzi, responsabile scientifico dell'iniziativa, assieme a Rossella Gaudino. L'esigenza di questo convegno è nata dalla necessità di integrare il più possibile percorsi di cura per pazienti, persone che hanno bisogni complessi che spaziano dalla salute mentale alla salute fisica. Ci sono evidenze crescenti di meccanismi di causa comune alle patologie fisiche e ai disturbi mentali, e anche alcune terapie che vengono definite dimensionali sembrano portare beneficio sia al benessere psichico che alle problematiche fisiche dei pazienti. Abbiamo quindi pensato di mettere in rete diversi specialisti che si occupano di tematiche apparentemente distanti tra loro per facilitare la condivisione dei saperi nell'interesse ultimo dei pazienti. In quali patologie, per esempio, si può trovare questo legame? La depressione maggiore è la patologia psichiatrica più comune, nonché una delle problematiche di salute più comune al mondo in generale. C'è evidenza che vi siano tanti tipi di depressione, ad esempio uno di questi sembra avere dei meccanismi infiammatori sottostanti che determinano un picco di depressione in età più avanzata, se non senile, quando l'infiammazione tende ad accumularsi nell'organismo. Quindi, in altri termini, quando la persona sviluppa patologie fisiche che hanno per substrato l'infiammazione, questo può portare al simultaneo sviluppo di sintomi di tipo depressivo. Occorre pertanto identificare le terapie più efficaci in quelle condizioni che condividano substrati biologici e neurobiologici comuni. Allo stesso modo vi sono patologie, per esempio oncologiche e reumatologiche, che hanno per base l'infiammazione o altri meccanismi che sono comuni alle patologie psichiatriche. Un ricco calendario di eventi pensato per coinvolgere e divertire i più giovani. La stagione della Contrada, dedicata a bambini e ragazzi, si articola in diverse rassegne che si svolgeranno sia al Teatro dei Fabbri che al Teatro Orazio Bobbio, affiancando la storica rassegna Teatro in Compagnia, dedicata alle scuole. La presentazione questa mattina a Trieste, alla presenza di Livia Mabilino, presidente dello Stabile di Trieste La Contrada, e Enza De Rose, responsabile del settore teatro per l'infanzia e la gioventù, e Ariella Reggio, fondatrice del teatro La Contrada. Lo sport, il calcio, appuntamento infrasettimanale in Serie C per la Triestina, che questa sera a Monza affronterà l'Inter Under 23. Sugli spalti anche il neopresidente della società, lo statunitense di origine croata Tom Zelenovic, che ieri presentandosi ha garantito il massimo impegno per ricostruire il club dopo la crisi finanziaria e riconquistare la fiducia dei tifosi. Fischio d'inizio alle 20:45. Partito l'undicesimo rally Valli della Carnia, oggi equipaggi impegnati nelle ricognizioni del percorso, domani lo shakedown Feltrone dalle 9 alle 13 darà le prime indicazioni sullo stato di forma dei concorrenti e delle loro auto dopo un lungo stop dalle gare. Domani la partenza ufficiale alle 18, in successione le prove speciali Montepura e Voltois, sabato toccherà alle speciali Verzegnis e Val di Lauco. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Samuel Montalto e Dario Nardini, in redazione ha collaborato Isabella Paruto, dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.